del mar. Passa il tempo tranquillo a nuotare, meditando di filosofia, mentre le onde lo portano via. Ha sentito parlare di resurrezione della carne, ma di un pesce ditemi Dio che vorrà farne. Preferirei non essere né carne né pesce, almeno saprei di essere destinato all'ignavia. A un tratto è trascinato via, non soltanto dai pensieri suoi, è una rete di chilometri che lo soffoca e lo tira. È una strage nei mari del nord, Capitan Findus, accidenti a te, del mio corpo dunque che sarà bastoncino baccalà. Ancora quasi vivo, mesi di viaggio per portarmi via, dietro il vetro di una pescheria, poi comprato a pochi euro al chilo, dal padrone di un ristorantino, chissà che ammollo almeno un po' mi lasci, sperando di non finir sushi. Ma lo aspetta la fine più atroce, dentro una pentola questo lo cuoce, con il cervello di una testa verde, chiamato volgarmente verde. Con questo caldo mi son già stufato, davvero mai non avrei pensato di finire anche una volta sola in un inferno di